Ma siamo partiti da un dato centrale, cioè abbiamo cercato di indagare quella che è la percezione dell'immigrazione in Italia e in Italia in confronto agli altri paesi europei. E il dato che emerge è che l'Italia è il paese in cui la distanza tra il reale e il percepito, tra la presenza concreta degli immigrati nelle nostre città, nei nostri paesi, e quella che invece gli italiani percepiscono, è la più alta in tutta Europa. Cioè la distanza tra il 10% di immigrati realmente presenti nel nostro paese viene contrastata con una percezione che si aggira attorno al 25%, e la distanza tra il reale e la percezione non ha paragoni negli altri paesi europei, quindi diventa interessante, diventa forse anche urgente interrogarsi sulle cause che spiegano questo errore di percezione, questa percezione è così distante rispetto al dato reale. Non solo la presenza, ma anche il pericolo percepito attorno a questa presenza, giusto? Sì, perché ovviamente ingigantire il problema dell'immigrazione porta anche a ingigantire le conseguenze dell'immigrazione, quindi chi tende a sovrastimare la percentuale di immigrazione in Italia tende a essere ovviamente anche più critico verso quelle che possono essere le conseguenze negative dell'immigrazione in termini di welfare, di peso per degli immigrati sul welfare italiano, in termini di criminalità, cioè il contributo negativo che viene considerato dagli italiani come un danno in termini appunto di possibilità di commettere reati dai cittadini stranieri, e quindi ingigantire il problema porta anche ad ingigantire delle conseguenze dell'immigrazione. Quindi questo è il punto in cui la percezione, un'errata percezione, porta però ad avere delle conseguenze reali, concrete, su quello che gli italiani pensano degli immigrati nel nostro paese. Lei prima diceva forse è il momento di interrogarsi sulle cause, lei si è fatto qualche idea? Ma io ho provato a studiarle, quindi ho provato a verificare se c'erano collegamenti, relazioni, rapporti con elementi concreti, con dati duri, se quindi una percezione che si poteva spiegare con la crescita in termini anche numerici, reali, dell'immigrazione, con l'afflusso nuovo di richiedenti asilo, e i dati duri non spiegano la differenza tra la realtà e la percezione. Quindi c'è sicuramente tra le cause che devono essere indagate la capacità di alcuni attori politici, partitici, penso in questo caso soprattutto ai partiti anti-immigrati, di saper politicizzare questo argomento, di saperlo portare sull'agenda pubblica e di saperlo sfruttare per i propri consensi personali. Anche questo fa parte però non solo della percezione, ma della capacità reale di alcuni attori politici di saper suscitare, saper individuare un argomento e portarlo al centro dell'attenzione pubblica. Quindi tra le varie cause sicuramente c'è anche la capacità di alcuni leader politici, tra cui ovviamente rientra il ministro dell'interno Matteo Salvini, di saper individuare un tema e di saperlo gonfiare in maniera esagerata da questo punto di vista. Poi c'è anche ovviamente la capacità, o forse la non capacità, dei media di saper porre il tema nei giusti termini, magari facendo anche non controinformazione, ma ponendo le basi vere per un'informazione un pochino più dettagliata e precisa. Ecco, una cosa mi ha colpito nella sua ricerca è un grafico che analizza la relazione tra l'indice di nazionalismo e l'errore di percezione della presenza appunto di migranti. C'è una connessione diretta? Sì, anche se non sappiamo qual è la direzione della direzione, quindi non possiamo dire che sia un atteggiamento eccessivamente nazionalista degli italiani che porta a ingigantire il problema dell'immigrazione o a vederlo addirittura come direttamente un problema, oppure se è l'altro argomento opposto, quindi l'avere una percezione sbagliata, errata, eccessiva, esagerata dell'immigrazione porta a ingigantire, porta a rafforzare quello che è invece un'attitudine nazionalista degli italiani. Su questo bisognerebbe fare ulteriori ricerche, però sappiamo che i due elementi sono sicuramente collegati, quindi anche di nuovo è come la percezione del problema influisce sull'atteggiamento degli italiani nei confronti dell'immigrazione. Un'altra cosa che colpisce, lei appunto è andato a indagare anche le preferenze politiche di chi sbaglia la percezione. Diciamo che ci sono anche dei pregiudizi politici, degli atteggiamenti politici che ovviamente orientano i giudizi dei cittadini su questi argomenti, quindi un elettorato di centrodestra o di destra è portato, da quello che ci dicono i dati, a ingigantire, a vedere un problema in una misura superiore rispetto a quella che viene indicata dalla realtà. L'elettorato di centrodestra percepisce, diciamo, una presenza di immigrazione superiore o attorno al 30%, quando sappiamo invece che la realtà si aggira attorno al 10%, e quindi ci sono dei pregiudizi politici, degli orientamenti politici che servono a spiegare parte di quell'errore percettivo di cui abbiamo parlato all'inizio. Quindi ci sono anche elementi politici in quell'errore di percezione. Chi si ritiene, chi si colloca, chi si autocolloca nella destra o nel centrodestra è portato a ingigantire la presenza dell'immigrazione nel nostro paese, e qui di nuovo la percezione incontra la realtà, perché poi ovviamente le misure che propongono i partiti di destra vanno a risolvere un problema che è ingigantito dai loro elettori. E invece su, come dire, il minore errore del centro influisce la posizione della Chiesa? È probabile che soprattutto negli ultimi mesi la battaglia, diciamo così, l'aver posto al centro dell'attenzione pubblica da parte della Chiesa il tema dell'immigrazione, in parte in contrasto, diciamo, con quella del governo. Proprio questa mattina c'era un articolo di Il Vogliamanti su Repubblica che presentava Matteo Salvini come l'antipapa, e quindi di nuovo c'è la figura di Papa Bergoglio e della Chiesa, penso ai riferimenti di soprattutto di Famiglia Cristiana, che ha giocato sicuramente un ruolo nella percezione che gli elettori di centro, moderati, un tempo affini ovviamente alla cultura vicina alla Chiesa Cattolica, ha avuto per quello che riguarda la percezione del fenomeno. Però ritorna l'argomento di prima, cioè quindi gli orientamenti politici partitici servono anche a orientare il modo in cui noi vediamo, percepiamo la realtà.